chiederle chi è il vostro cliente tipo e se è cambiato nel corso degli anni, cioè il vostro lavoro anche di sensibilizzazione sui temi alimentari, se ha già modificato il vostro cliente tipo. Noi abbiamo iniziato proprio con quel progetto proprio specifico di fare questa formazione ristorata con questa propria idea di fare un'educazione alimentare non dal punto di vista dietetico ma dal punto di vista proprio dell'etica, della missione. E lì con questo abbiamo iniziato proprio con i ragazzi dell'Orso Pippo per fare questo tipo. Alla fin fine quella che doveva essere la nostra attività principale, perché pensavamo da lì che era nata anche tutta la cucina, 80 persone al giorno, quindi tutto, lì si è verificata invece è ancora estremamente marginale. La portiamo avanti perché è bello con gli studenti, perché c'è questa. E abbiamo visto nel corso degli anni che anche con i ragazzi riusciamo a fare qualcosa. Invece è diventato un diciamo settore più importante, cioè quello che ci dà maggiore lavoro, è diventato questo aeroporto, questo catering che stiamo facendo con l'amministrazione pubblica, che sta scegliendo, cioè che ha fatto proprio una scelta, la sta facendo, la sta strutturando sempre di più, questa scelta di scegliere la cooperativa, di scegliere la cooperativa sociale, di scegliere un determinato tipo di prodotti. E quindi ci siamo spostati nel corso di 2 anni. Adesso, con questa manifestazione, con questa degli alpini, c'è il quartiere che si sta avvicinando, che alla fine era la cosa che desideravamo. Noi siamo visti, è stato chiuso per anni, tutto questo era un deposito, hanno avuto dei grossissimi problemi con i vicini, infatti noi non abbiamo i padroni, non abbiamo l'attacco del gas, andiamo a bombole proprio per queste problematiche tra vicini e di conseguenza anche noi ci avevano visto sempre con sospetto. Adesso con piacere scopriamo che riusciamo man mano a essere una parte del quartiere, cioè oggi quando ho visto man mano la persona che è arrivata proprio stamattina. Io ho il negozio qui, veramente si può venire a prendere qualcosa da mangiare. Poi è avvenuta, cioè finalmente cominciamo a fare quartiere, cominciamo a essere considerati un elemento. Ma quindi grazie all'evento? Sì, grazie a quello. Giornata degli alpini. Grazie a quello, sono avvicinata, hanno visto perché abbiamo comprato gli ombrelloni, siamo diventati un po' più locale, no? E allora poi hanno visto appunto arrivare e assieme agli alpini, che erano tutti seduti fuori, perché avevano prenotato, si sono avvicinati timidamente, davvero fate da mangiare, ma davvero. Già l'anno scorso pensavamo di fare le serate a tema, pensavamo di fare qualcosa. Però dicevamo, cioè alla fine, cioè se non veniva nessuno o veniva magari l'amico e faceva cosa, il nostro significato, no? Adesso ci nasce questa, a questo punto, allora forse se mettiamo fuori il cartellone e diciamo che c'è la serata, magari arrivano. E questa è essere un elemento, perché ci sono tante persone sotto. Ci sono tanti, anche anziani, cose, quindi scoprire che hanno questa possibilità è bello. Un po' è anche stato, perché abbiamo fatto una convenzione con l'IPES, che è quindi a Piazza Matteotti, quindi vengono.